America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Silver moons and paper dreams, faded maps and shiny things. Questa che vi ho fatto ascoltare è una pubblicità del Kindle, questo handheld device di Amazon che ti consente di leggere libri che possono essere scaricati sullo strumento elettronico. Perché ve ne parlo? Beh, perché vi ho raccontato di questi ragazzi che hanno vinto questo concorso sul Rinascimento, che hanno studiato l'umanesimo, ragazzi che vengono dalla scuola pubblica americana, ma la scuola pubblica più difficile, quella delle inner cities, quella povera, e che vanno a Firenze appunto per studiare il Rinascimento grazie a una borsa di studio organizzata da Palazzo Strozzi, dalla Palazzo Strozzi Foundation USA, legato ovviamente a Palazzo Strozzi a Firenze. Dunque mi sembrava interessante affrontare i temi che sono stati assegnati. Il primo tema riguarda le librerie. Il tema dice: la conoscenza è stato un ingrediente centrale per l'avanzamento delle società nella storia, e nel corso di migliaia di anni le tavolette, pergamene, libri, quando poi è stata inventata la stampa, le biblioteche sono al centro, sono una fonte significativa della cultura. E qui la domanda: se si parte dal presupposto che i valori di una cultura sono spesso espressi dalle biblioteche che questa cultura costruisce, che cosa ci dice la Library of Congress, la più importante libreria a Washington, che serve il Congresso, sulla fondazione degli Stati Uniti d'America e sulla sua ricerca della conoscenza, soprattutto come potete confrontarla a un'altra importante collezione nazionale come la Biblioteca San Marco di Firenze? Ecco, il primo tema è dedicato alle biblioteche, il secondo tema è dedicato al libro. Ho parlato del Kindle all'inizio, ma il libro come oggetto, non soltanto come mezzo culturale, ma come oggetto. Un libro ha degli odori, le pagine possono avere degli odori particolari, ha una copertina, una grafica, una rilegatura, insomma il libro può essere un oggetto. Scompare questo oggetto con l'economia digitale? E infine, sempre restando in tema dell'informazione digitale, il terzo tema provocava questi ragazzi chiedendo loro: beh, insomma, da una parte internet e l'informazione digitale porta un aumento della conoscenza, dall'altra rischia di produrre una diminuzione della qualità della conoscenza. Ecco, sono tre temi difficili, ma sono tre temi che hanno al centro il libro e le biblioteche. E dunque il personaggio che vi voglio presentare è il dottor Anthony Marks, il presidente e l'amministratore delegato della New York Public Library. All I could say is come to the library. It's the place for free where all New Yorkers come. Ecco, dovremmo chiederci che ruolo ha, che senso ha avere oggi una biblioteca quando tutto è digitale, quando attraverso il nostro computer possiamo avere accesso a centinaia di migliaia di libri senza muoverci da casa nostra. La risposta di Anthony Marks, che è davvero un personaggio straordinario, di straordinaria cultura, è stato presidente di una delle più importanti università americane, Amherst College, prima di venire a guidare la New York Public Library, dice: venite a visitare la biblioteca, è il posto che accoglie gratuitamente tutti i newyorkesi di ogni età, sesso, appartenenza etnica, religione o fede politica, e tutti loro vengono in biblioteca non perché qualcuno li obbliga, ma perché vogliono. E poi spiega perché ha accettato questo lavoro. Dice: quando mi è stato offerto questo lavoro sono andato a visitare la mia biblioteca di zona a Inwood, che è tra Harlem e il Bronx, dove lui è cresciuto. Ho parlato con la gente e incontro uno di loro, un ragazzo domenicano, che mi dice che vive in una casa di due stanze con sette persone e dunque veniva in biblioteca per avere un po' di quiete. Allora gli ho chiesto che libri leggesse e lui ha indicato il libro che aveva di fronte, un grosso volume di dipinti del Rinascimento, e mi ha detto: I come to the library to see pictures of angels. Vengo in biblioteca per guardare le immagini degli angeli. America 24. Anthony Marks, dunque, la New York Public Library. Ecco, vi voglio dare un'idea di che cos'è la New York Public Library, perché è un colosso. È la più grande biblioteca del mondo, ci ha detto Marks, con 87 filiali in tutti i distretti di New York, una biblioteca antica finanziata da Andrew Carnegie, con la più grande donazione singola nella storia. Questo succedeva alla fine dell'Ottocento, 5,2 milioni di dollari di allora, che sarebbero equivalente a 1,4 miliardi di dollari, è la più grande biblioteca a circolazione degli Stati Uniti e i suoi archivi sono fra i più ricercati del paese. Ci sono 20,4 milioni di libri, 51,2 milioni di articoli. La New York Public Library è superata solo dalla Biblioteca del Congresso e dalla British Library. E nonostante ci sia stato un taglio, ci ha detto Marx, del 20% dei fondi municipali negli ultimi 5 anni, il numero dei visitatori, il numero dei libri presi a prestito, il numero dei programmi educativi in questa era digitale, in cui immaginiamo di essere tranquillamente sul divano a casa attaccati a un computer, sono aumentati del 15-20%. Ogni anno, dice, ci sono state 20 milioni di visite in più rispetto all'anno precedente. Ci sono corsi gratuiti di lingua inglese, corsi di informatica, un programma di dopo scuola. Insomma, la biblioteca è pulsante nell'era digitale perché Marx ha trovato il modo per reinventarsela. Anytime you come, every seat is filled. Every seat. Sentiamo cosa dice, questo è un messaggio molto pregnante, cosa dice Marx. A chi mi chiede, ma i libri digitali non segneranno la fine della carta stampata? Io rispondo, venite a visitare la biblioteca qualunque giorno della settimana, non troverete sedie vuote. Molti hanno un computer davanti a loro e probabilmente solo il 15% delle persone hanno davanti un libro preso in prestito dalla biblioteca. Quindi vi chiederete, ma perché vengono? La risposta è nel Rinascimento. Non siamo più uomini delle caverne, abbiamo fame di idee e della compagnia di altre persone, vogliamo sentirci ispirati dagli spazi, dall'arte, dal vedere altre persone leggere, scrivere, pensare, vogliamo sentirci parte di una società che ci offre questa opportunità. Questo è il motivo per cui la biblioteca non è mai vuota, è la ragione per cui il nostro futuro è luminoso. Il Rinascimento, dice Marx, ha preso il via con la stampa del primo libro, il 1463, senza Gutenberg e tutto quello che è seguito, l'esplosione di idee che c'è stata con il Rinascimento non sarebbe mai avvenuta. Eppure questo importante momento storico sembra impallidire di fronte all'esplosione di informazione, all'accesso all'informazione che c'è oggi. Se pensiamo che il Rinascimento ci ha portato il meglio che la civilizzazione abbia mai prodotto, beh, io sono un ottimista, perché credo che la prossima ondata di condivisione dell'informazione, di creazione di informazione, sarà davvero sbalorditiva in modi che non possiamo neanche immaginare. Questa volta avrà un impatto globale, coinvolgerà tutti, ogni cultura sarà rivoluzionaria, e qui a New York vogliamo essere alla guida di questa rivoluzione. E quindi i valori del Rinascimento, dice Marx, non solo sono ancora vivi oggi, ma stanno per ricevere una grandissima nuova spinta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo con la classifica della National Public Radio. Vi propongo un'altra grande canzone nei primi 6 mesi di quest'anno, di Rai, Open. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!